Siamo con Emily Clancy, consigliera comunale di Coalizione Civica, oggi in una conferenza stampa in cui proponete alcune vostre iniziative per contrastare gli effetti distorsivi della gig economy, dell'aumento dell'economia legata al turismo. Prima di tutto ti chiedo quali sono queste distorsioni che vengono prodotte. Le distorsioni sono che purtroppo il 45% degli utenti che mette degli appartamenti su Airbnb non ha degli annunci singoli, quindi non sta mettendo una casa, non sta integrando il proprio reddito, ma magari possiede 10 o 64 appartamenti, come è il caso di Bettina, è giustamente denunciato dagli studenti. Noi vogliamo andare proprio a ridurre questo tipo di utilizzo e di speculazione di una piattaforma. Non vogliamo punire chi appunto integra il proprio reddito e fa effettivamente sharing economy. E ci è stato ben spiegato dalle associazioni come LocalPal che ci sono proprietari che magari per esigenze di lavoro vivono 6 mesi a Bologna, 6 mesi da un'altra parte, quindi in quel momento che non utilizzano la casa la mettono su una piattaforma ed effettivamente stanno dando un immobile che sarebbe vuoto a qualcuno che arriva in città. Questo può essere un utilizzo corretto. Se tu però sei un grande proprietario e hai 60 appartamenti che stai togliendo alle famiglie e agli studenti, stai completamente distorcendo l'utilizzo della piattaforma e anche del mercato. In più un grande problema è l'evasione fiscale. Ad oggi ci risulta che circa un utente su 10 abbia fatto la procedura della scia in comune e quindi sia in regola con il pagamento delle tasse. Quindi vogliamo obbligare il codice identificativo per mettere la propria casa, il proprio annuncio sulle piattaforme. In questo modo vai a colpire l'evasione fiscale, redistribuisci quella ricchezza che arriva anche dal turismo e magari incentivi anche invece procedure per gli affitti a canoni concordati, gli alloggi a lungo periodo. Insomma, è tutta una regolamentazione diversa che si deve fare di questo turismo perché sia solo positivo per la città e non negativo.